Mi sente qualcuno? Sì, dimmi. Ascolta, ci potresti andare dentro a Checcano la Rosa, sacche di uresi e qualche... qualche cerata. Va bene. Grazie. Pier Francesco, mi senti? Anche dei rubinetti, per favore. Puoi ripetere, Carmen? Anche dei rubinetti, per favore. Va bene. Grazie. Ma sapete dove sono state messe le buste per la diuresi, che non le troviamo qua? Pier Francesco, lascia stare le sacche della diuresi perché ne ho trovato una scatola dentro. Ah, ok, perfetto. A Checcano la vi sto mettendo quelli verdi perché rosa non ne abbiamo, ci abbiamo solo verdi e grigi. Ok, vanno bene i verdi perché i grigi ci sono già qui e non li vogliono. Ve li stiamo mettendo in zona sezione. Andiamo dove andiamo, cazzo! Foto! C'è nessuno qua? Qua sì. Mi passate Alice, per favore. Arriva! Sì, dottor Rum, sono qua. Le vuoi fare le foto? Come funziona? Vengo lì al vetro. Vengo adesso. Pier Francesco, mi senti? Sì, Annaro. Mi metti una confezione di Lasix in sezione, per favore. Eia, arriva. Lasix in sezione. Pier Francesco. Dimmi. Vieni alla finestra, ti lascio i parametri di Sanna, letto 1. Arrivo. Mi viene alla finestra che vi facciamo vedere il foto di Harru. Alice, ci senti? Vieni a fare le foto di Harru. Alice sta arrivando, sincronizzatevi sulla stazione 5. Sì, ma adesso non è qui, mandami Alice, la stazione 5 lo sono solo per. Claudio Pedivella. Luca Casarella. E Becla. Qua sono, guardandomi la TV. Sempre bene, mi ascolti, sì? Sì, sempre bene. Sempre a trovarci. E via. E sei stato a fare un lavoretto, dai. Sono rientrato, mommo. Se sta andando l'acqua, ho fatto la doccia così, al volo, cazzo. Meno male. Aia, aia. No, arrivi bene adesso. E Luca, ti sente bene? Sì, sì, voglio scalarmi adesso. E allora, usa voi. A posto. Chi è? Cosa? Avete parlato in due, chi è? Oh, qua. Oh. Dai, sono interrato, sto facendo l'antenna Graziano, dai, quell'antenna come quella... Tipo quello che mi ha dato tu, dai, a quattro fusi, però, dai, ciao, a dopo, mi sto ascoltando. Fai. Mi senti per Francesco? Sì, dimmi. Mi metti... Quella che sto fatto io, se ti fa già questo picca. Cioè, attenzione al radiale, pare un ragno. Ah, questi disegni hanno intagliati, adesso è perché ho fatto i buchi, ci ho infilato i radiali. Cazzo, non hai visto in mano che ce l'ho? Mamma che sia una druzza. Non lo vedi che quello c'è in mano? Quello lì è il radiale finito, che li sto tagliando. Ah, tagliati, Anna. Vabbè, tagliali allora, io ci paro un ragno. Ma che sono? Chi fu vasi, eh? Non andare a fare una camminata. Vabbè. Vabbè, no, quello che ho detto io, un'antenna seria. Vabbè, aspetta che mi sta scrivendo mia figlia un attimo. E cosa, Cla? Bobo cosa? No, sto guardando il canale 5, una cucciolata a Oschiri. È una cucciolata di Labrador, cazzo, uno è nato belli. Ma che belli che sono, uno è nato verde e l'hanno chiamato pistacchio. E mica vuol dire che chiamo mandarino. Ok, arrivo. Andiamo e andiamo. Vieni al 10. Puoi ripetere? Eia, arrivo. Stanno subito cercando. Non te la metto la multa intanto, dai! Sei partito! Elia, mi senti? Elia? Ah, beh, Lugarie! senti? Elia, mi senti? Elia, mi senti? Ma se io ti chiamo non mi... Pronto, pronto? Pronto? Pronto, pronto? Elia, mi senti?